Sura prima. Al-Fatiha. La prente. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Il compassionevole, il misericordioso. Re del giorno del giudizio. Te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto. Guidaci sulla retta via. La via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira, né degli sviati.